hacker, mangiati tutti dei cracker, sgamati come hacker, puntati con un laser, chiusi come i buffer, bontà senza lo hacker, uno sterminio di massa Mirko Mister Lager. Hey, hey. Sono a passo con il tempo, manco fossi un braille. Tu liriche da mega gay, il mio rap più attraente, Megan Gale. Lyrical, cannabis, medical, volo in it parade. Altro che canotte da basket, felpe con cappucci. Vestiti Armani Prada con scarpe marcate Gucci. Siete esploratori? Amerigo Vespucci. Fate finti pezzi rapper, rappezzi da pezzi di Leo Ferrucci. Differenza tra cassa e rullante, differenza tra munez, perché grezza e non elegante. Tutte sere capochino, ma rumana, mano. Vacante, non ignoro loro, ma loro tanto ignorando. Sienda, un rap non fa per te, leva mano fino a quando da romano riemba. Sienda, non fa per te, stai per tenna sulla riemba. Sienda, un rap non fa per te, leva mano fino a quando da romano riemba. Sienda, non fa per te. Stai perdendo sulle riembe. Il cervello meccanico come Bender. Se faccio rap improvvisato contro chi si è improvvisato rapper. Voglio vivere il mio tempo come Lit Fiba, lontano da chi è bugiardo più di Fabri Fibra. Non cerco una showgirl in un live show, più numeri del We For Life. All life goes on nelle battle, viaggio nel tempo, sfido un merlo. Non vive tra rai tedeschi, John Lennon. Medici dell'SS, Lolling e no, altro che fumi giamaicani, Levis, Lennox. Pensieri profondi, lago di Lenno, più numeri di un terno in arte desa e Rubicherno. Leader mondiale, Ferno. Mostro leggendario, Hermos. Fermi tipo un termos. È inutile che tu tattici dei concerti, perché tieno staff, ma ro rap te manco concetti. Sienda, un rap non fa per te, leva mano fino a quando da romano riemba. Sienda, non fa per te, stai per tenna sulle riemba. Sienda, un rap non fa per te, leva mano fino a quando da romano riemba. Sienda, non fa per te. Stai perdendo sulla riemba.